9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno caro ascoltatore, dedichiamo questo inizio di settimana a un evento che è avvenuto il 15 gennaio, quindi sabato, e sabato abbiamo... Tutto il mondo ha celebrato i 10 anni di Wikipedia. Wikipedia è l'enciclopedia online che è diventata una compagna fedele di chiunque abbia uno schermo, di chiunque utilizzi internet e di chiunque abbia un dubbio su un termine, un'espressione, un termine scientifico, geografico, storico. E 10 anni fa, appunto, dalla intuizione dei due fondatori, che però si divisero immediatamente dopo, i due fondatori erano Jimmy Wales, che ha continuato poi negli anni a essere il nome eponimo, il motore immobile e mobile del progetto, e Larry Rangers, che invece Larry Sanger poco dopo, l'anno dopo, si separò dal cofondatore. Perché si separò? Si separò perché aveva l'idea che questo progetto fosse un po' non abbastanza rigoroso nelle coordinate della sua idea di fondo. Qual è la sua idea di fondo? La sua idea di fondo è quella di approfittare, mettere a rete, appunto, mettere a sistema il massimo coinvolgimento nella redazione delle voci da parte di tutti, studiosi, studenti, chiunque può compilare, adeguandosi naturalmente ai codici previsti, delle voci, e queste voci sono aperte alla peer review, quindi ha un criterio di trasparenza di giudizio da parte degli componenti di coloro che formano le voci di Wikipedia, che è uno dei fondamenti in definitiva da sempre della ricerca scientifica moderna. La peer review è il criterio per il quale i ricercatori vanno avanti nella loro carriera, mettendo alla prova la bontà delle loro ricerche, la fondatezza della metodologia e dei loro di ciò che hanno trovato, esattamente sottoponendola al giudizio dei pari, della comunità scientifica. E quindi con questo criterio Wikipedia è diventato il simbolo di ciò che può da una parte realizzare la trasparenza della rete, che è uno dei grandi miti di internet. Quando dico mito uso apposta un termine ambiguo: un mito è una grande nozione fondativa che diventa costitutiva di un'idea stessa di civiltà. E il mito ha contemporaneamente però un altro aspetto, un giano bifronte, qualche cosa che nella sua semplificata capacità di identificare un punto di fondo di un istituto, di una cultura, e maschera anche delle trappole, dei difetti. E un pochino in questo sta anche il difetto, secondo alcuni, di Wikipedia come di internet, perché l'idea che la trasparenza della rete assicuri fondatezza scientifica, rigorosamente metodologica, e eviti quindi orientamenti indotti, per così dire, mistificazioni, veri e propri errori, beh, questo a distanza di 10 anni da Wikipedia è un punto molto aperto. Wikipedia comunque è uno dei 10 siti più cliccati al mondo, centinaia e centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Stiamo parlando di un prodotto che gira in, naturalmente il termine prodotto farà inorridire i suoi difensori, in più di 270 lingue, che ha una community naturalmente di amministratori anche in Italia, come in tutti gli altri paesi, e con oltre 17 milioni di voci, pensate, oltre 3 milioni e mezzo sono in inglese, quasi 700 mila sono in italiano, ricorrenti dibattiti intorno alla affidabilità e alla fondatezza dei criteri attraverso i quali si compilano le voci. Ricordate, tanti anni fa ci fu un famoso articolo di Nature che diceva che era più attendibile dell'Enciclopedia Britannica, fu molto contestato dalla comunità scientifica. La mia domanda a tutti voi è: ditemi che giudizio e che eventualmente pregiudizio, se appartenete a una comunità scientifica soprattutto, avete sulla bontà, l'affidabilità delle voci di Wikipedia. Cosa pensate delle tante polemiche che sono avvenute negli anni, quando poi ci si è scatenato un dibattito? Si diceva che può diventare uno strumento attraverso il quale delle comunità molto orientate e molto determinate possono, per così dire, militare attraverso la redazione di voci politicamente orientate. E così c'era tutta una comunità, la comunità dei neocon, che dicevano che c'era un pregiudizio negativo sulle voci che riguardavano alcuni componenti dei neoconservatori. Al contrario, i liberal dicevano che si era organizzata una controoffensiva da parte dei busciani per manipolare e articolare in senso artatamente favorevole i profili dei politici di un certo tipo, perché ovviamente quando si parte dal basso, la cooperazione dal basso è aperta anche a gruppi di pressione, e i gruppi di pressione e le mistificazioni organizzate, per così dire, su una delle altre accuse che ritualmente vengono sollevate nei confronti della rete. In rete girano molte bufale, è il classico strumento attraverso il quale dilaga la teoria del complotto e della mistificazione e dell'antimistificazione. Insomma, Wikipedia non può inevitabilmente che rispecchiare le caratteristiche sia positive che negative di questa però civiltà di massa in tempo reale sempre collegata, che non poteva che avere bisogno e di avere della geniale invenzione di un aggiornamento, della grande idea, che poi è un'idea di fondo che misura un grande avanzamento della civiltà. Il mito fondativo dell'enciclopedia si collega con l'illuminismo, l'enciclopedia era il vertice del movimento intellettuale che fa uscire dal potere assoluto, con l'idea invece che la scienza non possa essere governata secondo principi di auctoris e auctoritates. Però la differenza di fondo era che naturalmente l'enciclopedia illuminista era fatta da forti elitarismi, perché il meccanismo di selezione non era solo quello della peer review, anzi non era tanto quello della peer review, era un meccanismo di cooptazione come sempre avviene nelle comunità scientifiche di qualità, molto elitario. E il mito invece dell'enciclopedia, che si nutre, si trasforma, si alimenta dal basso, come non può che essere con la rete, è qualcosa di profondamente diverso. Tant'è vero che c'è chi dice l'enciclopedia che vive con un giudizio dall'alto in basso non può che essere, se non in apparenza, la stessa cosa di un'enciclopedia che si alimenta e si trasforma dal basso in alto. E quindi mi interessa capire, con le vostre telefonate, quanto voi ve ne servite con l'idea che sia meglio dal basso in alto, bottom up, come si suol dire, piuttosto che con la vecchia idea che la cultura preserva meglio i suoi errori quanto più ha un meccanismo di cooptazione invece top down. Ditemi come la pensate. Intanto chiediamo a chi ne sa molto più di me del decennale e soprattutto delle ambiguità e delle stupende anche occasioni che sono offerte da Wikipedia e dalla rete più in generale. Abbiamo con noi come ospiti Frida Brioschi, che è presidente di Wikimedia Italia. Buongiorno Frida. Buongiorno. E Luca De Biase, che è il responsabile di Nuova 24 e Sole 24 Ore, una strepitosa guida per me da sempre di tutto ciò che è la nuova frontiera delle tecnologie, della rete, dei nuovi prodotti, dei nuovi servizi, ma soprattutto della fascinazione e anche del rischio che c'è in tutto questo. Grazie a lui per dedicarci quest'ora. Buongiorno Luca. Grazie, sono qui. Saluti a tutti. Allora, io naturalmente chiedo prima a te che a Frida Brioschi di illustrarci cosa consiste il decennale, quante occasioni di manifestazione ci saranno anche in Italia, eccetera, eccetera. Io voglio chiedere a te se dovessi esprimere un giudizio personale prima che tecnico su Wikipedia, su che cosa ha significato in questi 10 anni, su quali sono i maggiori vantaggi ma anche i rischi in cui ti sei imbattuto in questi anni, in cui l'hai vista trasformarsi ed espandersi. Che ci diresti, Luca? Ma c'è una bellissima storia su Slate dei primi mesi di Wikipedia. Jimmy Wales scrive la voce Gesù per dare la guida alle altre voci, e ci mette 2 mesi la prima persona a entrare in contatto e a correggere quello che lui aveva scritto. Lui aveva scritto: Gesù è una figura centrale del cristianesimo. 2 mesi dopo arriva uno e dice: è la figura centrale del cristianesimo. Nel frattempo, in 10 anni, questo genere di correzioni si sono trasformate da alcuni mesi a 10 secondi. La capacità della rete di intervenire è stata dimostrata contro ogni probabilità, perché all'inizio io stesso ero piuttosto scettico sulla riuscita di questo progetto. E sono molto felice che, di essere stato smentito nel mio scetticismo. Se vuoi il paragone, tu hai fatto una introduzione bellissima al problema con l'illuminismo del Settecento, ci sta con le dovute differenze, perché il Settecento era il Settecento, il 2000 è il 2000. La cultura enciclopedica è la stessa in un certo senso, perché si basa sulla fede nella ragione, ma la ragione elitaria del Settecento non è la ragione del nuovo millennio, che in qualche misura cerca l'equilibrio tra il potere del vertice e il potere della base. Allora, l'enciclopedia multilingue, l'enciclopedia online, contenuto libero, ci interrogheremo poi su quanto sia libero, perché poi naturalmente se ci sono paesi capaci di filtrare internet, di orientarlo, di impedire che internet sia davvero libero, dalla Cina a molte altre democrazie autoritarie che hanno i device tecnologici per poterlo fare, e anzi sono tra coloro che hanno messo sotto frusta le più ampie comunità di tecnologi della rete per riuscire a farlo, e sono in grado di orientare la rete meglio molto probabilmente di grandi democrazie dell'Occidente. Ma al di là di questo, vediamo un secondo con Frida Brioschi di farci capire anche in Italia questo decennale che cosa significherà, quanto è ampia qua la comunità, quanti sono gli amministratori italiani, in cosa consiste poi davvero la vitalità della partecipazione a questa grande enciclopedia con più di 17 milioni di articoli nel nostro paese. E se noi abbiamo toccato il punto massimo, che sembra essere stato toccato, dicevano i dati negli ultimi mesi, perché per così dire diminuiva la velocità di espansione più che il numero di coloro che aprivano il sito, ma sembrava per così dire toccato un po' il punto massimo. In Italia secondo me siamo ancora invece a una buona espansione. Sentiamo da Frida Brioschi che cos'è il decennale per Wikipedia in Italia. Beh, per noi in questo momento è una grandissima festa, perché 10 anni fa nessuno di noi pensava che avremmo potuto ancora esserci dopo 10 anni e che cosa saremmo potuti diventare. La prima edizione di Wikipedia a dicembre del 2001 aveva come obiettivo di raggiungere 100.000 voci. In questo momento, come si diceva in apertura, ce ne sono quasi 18 milioni in totale, quindi abbiamo assolutamente stravolto tutto quello che ci aspettavamo. In Italia siamo abbastanza grandi, abbiamo circa 750.000 voci e 9.000 utenti attivi tutti i mesi, con grosso modo un centinaio di amministratori. Sono dei numeri che variano sempre, però ci danno un po' il senso di quanto è vitale ancora questa edizione. E per quanto riguarda la crescita, l'edizione in italiano è ancora in forte crescita, ma lo è anche quella in inglese. Il vero problema è che non raddoppia più alla velocità di una volta, questo indubbiamente, ma anche perché ormai è diventata immensa e quindi non era sicuramente più una crescita sostenibile. Possiamo spiegare un secondo in che cosa consiste davvero il fatto di essere amministratori? Come si diventa amministratori? Cioè, chi sono i guardiani? Chi attribuisce loro questa facoltà un po' platonica e che ha sempre poi qualche cosa che mette a rischio rispetto alla vera, tra virgolette, trasparenza e democraticità? Insomma, il Consiglio dei Guardiani come massimo organo dei saggi platonici è l'esatto opposto dell'idea del coinvolgimento democratico nel processo di aggiornamento del sapere e di quella sofia che è un po' uno strumento, si diceva nel vecchio latino, delle cancellerie, degli arcana imperi. Allora, se ci sono gli amministratori, chi garantisce, quali metodi garantiscono che non siano i guardiani degli arcana imperi che magari anche Wikipedia ha come tutti i siti organizzati? Chi è che li elegge? Chi li sceglie, come e perché? Li sceglie e li elegge la comunità. In realtà non sono dei guardiani e non sono neanche dei veri amministratori nel termine in cui siamo abituati con tutti gli altri siti e progetti. Da noi gli amministratori sono una sorta di strumento tecnico, sono delle persone che hanno delle facoltà tecniche che gli permettono certamente di effettuare delle operazioni da moderatore, per cui di cancellare delle voci, di bloccare delle persone, ma il loro operato è pubblico ed è sempre sotto il vaglio della comunità che li ha eletti, e quando sbagliano, soprattutto soprattutto ripetutamente, vengono revocati, perdono queste facoltà. Per cui tutto sommato rimane uno strumento molto flessibile che, per come è stato pensato, garantisce comunque la libertà del progetto. In un certo modo fa sì che il progetto non sia una completa anarchia, però. Ora, ancora una domanda per Frida, un'altra delle classiche cose che tutti chiedono, quelli che sospettano sempre che ci sia dietro l'obiettivo socialmente responsabile, la fregatura commerciale, per così dire. E cioè, le polemiche quando sono iniziate ad arrivare le richieste per la raccolta fondi e avevano una punta di giustificazione, in cosa è consistita? C'è una raccolta fondi a livello nazionale? Sono esplicite e dichiarate le finalità poi di utilizzo di questi fondi? Come funziona il problema di Wiki e della pubblicità? Di Wiki e della pubblicità funziona molto semplicemente, non c'è e non ci sarà, per una questione di indipendenza del progetto. Ecco. Invece quello che c'è è che tutti gli anni c'è una campagna di raccolta fondi che dura comunque tutto l'anno, ma che diventa molto esplicita e pubblicizzata tra novembre e gennaio, che serve per raccogliere il fabbisogno per l'anno successivo. Le spese che è necessario coprire sono principalmente spese per la tecnologia. Il 50% del bilancio di Wikimedia Foundation prevede spese tecniche. Essere il quinto sito al mondo ha dei costi veramente elevati. E il resto viene utilizzato per le pubbliche relazioni, per gestire la comunicazione online, per il processo di fundraising, per altri progetti, ma tutti i bilanci sono pubblici e online è disponibile il bilancio preventivo dell'anno prossimo di Wikimedia Foundation, ma anche di Wikimedia Italia, perché chi donava dall'Italia ha donato quasi sicuramente a Wikimedia Italia. Allora, naturalmente c'è chi sospetta, oltretutto gli ascoltatori sono fantastici, perché con l'idea che non sto parlando di Berlusconi e della Fiat, molti sospettano che io stia prendendo i soldi da Wikipedia dicendo che sono un venduto, perché chi non parla di politica e dello schifo, sto leggendo diversi messaggi, vuol dire evidentemente che ti hanno dato i soldi. Io penso che gli italiani siano a volte un po' fomentati, un po' troppo. La domanda che devo fare a Luca De Biasi a questo punto è un'altra, ma non è che Wikipedia ha avuto persino troppo successo in Italia? Cioè, per chi... Io sono abituato a guardare un po' di piattaforme, per così dire, di ricerca economica per addetti ai lavori. E effettivamente c'è nel mondo anglosassone una pluralità, non voglio dire di progetti paragonabili, ma insomma di comunità a volte anche più strette, più rigorose nei criteri di accesso per l'elaborazione delle voci in alcuni ambiti tecnici professionali, e così in ambito finanziario, economico, e così sicuramente in campo medico, eccetera, eccetera. Conosco una pluralità di piattaforme, però sono praticamente tutte in inglese, almeno quelle che conosco io. Ne conosco una in francese, non so dire in tedesco, che leggo troppo male, ma certo in italiano potremmo quasi pensare che il successo di Wiki è stato così strepitoso che è diventata praticamente quasi l'unica fonte. È così o non è così, Luca? Beh, è così in parte, nel senso che, non so, per l'economia tu conosci molto bene la voce.info che, pur essendo totalmente diversa, è una forma di divulgazione del dibattito economico relativamente orientata alla rete, alla peer review e alla collaborazione, e ha avuto un grande successo. Non c'è un equivalente di Wikipedia per molte ragioni. Mi pare che l'Italia abbia gradito così tanto Wikipedia anche per il fatto che ce n'è un bisogno enorme di un territorio intellettuale comune nel quale le regole sono relativamente trasparenti e che in qualche misura equilibra, come dicevo, l'idea che siamo in qualche modo dominati da un sistema di informazione un po' verticistico, tolgo un po'. Quindi il successo di Wikipedia è come un sorriso della rete italiana che ha detto: finalmente c'è qualcosa su cui lavorare in pace. Ora abbiamo la pubblicità e poi un tema, perché i nostri ascoltatori iniziano a segnalarci che in realtà Wikipedia in inglese è ottima, quello in italiano è un pochino molto lontano, pochino molto apposta, ha detto, da qualcuno che ci ha mandato l'SMS dicendo un pochino, no, anzi molto lontano dagli standard di quello in inglese, quindi la domanda preferita sarà questa, ma intanto pubblicità. Eccoci tornati in studio per i 10 anni di Wikipedia, l'altro ieri, il 15 di gennaio. Oltre alla domanda sulla distanza tra la piattaforma italiana e quella invece in inglese, naturalmente quella madre, un po' di ascoltatori che iniziano a telefonare, quindi sentiamo direttamente da loro, in maniera che poi giriamo gli interrogativi a Luca De Biase, a Frida Brioschi, che è presidente di Wikimedia Italia, e anche a Carlo Formenti, che si è aggiunto tra i nostri ospiti. Carlo Formenti insegna teoria e tecnica dei nuovi media presso l'Università del Salento, collabora al Corriere della Sera su questi temi e ci aggiunge un punto di vista di semiologia, per così dire, perché inevitabilmente, rispetto alla parola stampata e rispetto a quei grandi volumi allineati che hanno costituito per la mia generazione, io vengo da un quartiere operaio all'inizio degli anni 60, avere i diversi livelli dell'Enciclopedia Popolare Italiana, quelle che hanno costituito, per così dire, l'ingresso delle masse con l'alfabetizzazione un po' più approfondita, di diversi livelli intendo naturalmente conoscere per i ragazzini l'Enciclopedia Universo della De Agostini, e poi chi poteva addirittura permettersi il dizionario enciclopedico, non voglio dire naturalmente l'Enciclopedia Vera Treccani, che era esclusa per chi viveva nei miei quartieri, però questi erano i diversi livelli che misuravano nel salottino oppure nel salotto più grande la stratificazione sociale, per così dire, dell'accesso alla cultura nel nostro paese. Ovvio che il linguaggio, il segno del linguaggio e il significato stesso del linguaggio cambia a seconda del supporto. Oggi non c'è niente di simile, e però contemporaneamente non bisogna pensare che la parola su internet e che l'enciclopedia su internet non abbia a propria volta un impatto incredibile, moltiplicato rispetto a quello della parola stampata e dei dorsi e dei tessuti attraverso cui i dorsi dicevano a chi li vedeva a che livello stavi nella stratigrafia culturale del nostro paese. E quindi Carlo Formenti ci aiuterà a capirlo. Ma intanto vediamo alcune telefonate. Iniziamo con Matteo, che ci chiama da Venezia. Prego Matteo, la sua esperienza con Wikipedia qual è? Sì, pronto, buongiorno, saluto a tutti quanti, buongiorno signor Giannino, finalmente prendo la linea. Dunque, di fatto io sono solo 28 anni, però sono utente web dal 95-96, cioè dagli albori praticamente di internet, essendo poi un tecnico, lavoro nell'informatica, nella programmazione da moltissimo, quindi sono un po' smaliziato insomma per quanto riguarda l'utenza del web e di Wikipedia poi in particolare. Quello che volevo dire è che sicuramente sia il web e poi Wikipedia di conseguenza, essendo poi una sua ramificazione, ha sicuramente il pregio di essere immediata, però ha anche allo stesso tempo la facilità di portarsi agli estremi. L'illusione di, come dire, dare la verità, la democrazia assoluta, porta molte persone ad utilizzarla in modo estremizzato, chi più da un lato, chi più dall'altro, parlo politicamente, parlo ideologicamente, in tantissimi modi è difficile riuscire a trovare poi un'obiettività, perché tutti possono scrivere e questa illusione, secondo me, della democrazia totale, della verità. Si cerca qualcosa su internet ed è sicuramente vero, perché non è magari controllato da quelli che possono essere i media, gli interessi economici o politici o quant'altro, in realtà ci si trova poi che internet ha anche su un solo argomento molto eterogenea, ecco, diciamo. Tornando poi a Wikipedia, a me viene da dire che è utilissimo soprattutto in Italia, come diceva lei, la sua analisi era molto corretta prima, ha un po' il monopolio, no, dell'informazione libera, perché non ci sono degli altri portali anche più specifici che ne fanno da concorrenza, anche se concorrenza è un termine sbagliato, essendo poi un'associazione no profit. Però c'è da dire che è molto utile, secondo me, quando si cerca con immediatezza una risposta ad un dubbio, una data, il luogo di nascita di una persona famosa. Però nel momento in cui si ha veramente la necessità di individuare di scendere poi nel dettaglio, di scendere nello specifico di un argomento di cui appunto si vogliono notizie. Qualche limite c'è. Ecco. Grazie a Matteo da Venezia. Sentiamo Mario, che un'altra esperienza della provincia di Lecco. La sua qual è? Buongiorno, sì, saluto tutti, ma trascuriamo i preliminari. Io sono stato docente universitario a lungo e ho tentato di collaborare con Wikipedia, quindi materia? Ho un'esperienza. Materia soprattutto storica. Sì. e ho tentato di collaborare con Wikipedia, ho un'esperienza abbastanza diretta. Devo dire che nella sostanza, dal punto di vista generale, condivido tutti i giudizi positivi, perché consente un accesso rapido e universale a un sacco di informazioni, quindi è un neoenciclopedismo assolutamente reale. Quindi il mio giudizio è complessivamente decisamente positivo. Ci sono alcuni elementi. Per esempio, pur avendo una rete incrociata all'interno della stessa struttura che garantisce o che tenta di garantire l'obiettività, il ruolo degli amministratori qualche volta è un ruolo difficile da capire, perché non si capisce bene se questi amministratori hanno una base culturale sufficiente per fare una critica agli apporti. Aspetti, mi faccia capire, sta parlando il docente che ha trovato, rispetto a osservazioni che le venivano fatte su voci compilate, che erano delle osservazioni non basate su effettive, dal suo punto di vista, conoscenze, oppure no, o è qualcos'altro l'obiezione? Sì, è qualcosa del genere. Ora, io ammetto che il punto di vista della persona è una cosa che limita l'obiettività, ciascuno di noi ha un suo punto di vista, però è anche vero che certe volte uno che in una certa materia ha un minimo di competenza per avere ricercato cerca di dare un contributo al sistema che magari aggiorni e migliori delle cose che sono superate. Per esempio, anche nel campo della fisica, della matematica, Wikipedia ha delle cose meravigliose che però esigerebbero un minimo di contributo e di controllo da parte di chi è competente nel settore. Questa cosa certe volte è un po' limitata dagli amministratori, che hanno un'identità difficile da capire, perché siccome la risposta degli amministratori è fulminea, se lei mette su una cosa gli amministratori intervengono istantaneamente, da una parte fanno un ottimo lavoro, perché io ho provato a vedere dei siti dove comparivano parolacce di contributo esterno, loro li hanno subito eliminati, e questa è una cosa senz'altro positiva. Ogni tentativo di sortita politica viene immediatamente controllata e smorzata, per esempio partigianerie e cose di questo genere, però certe volte si ha l'impressione che questi amministratori si accontentino a certi livelli di una informazione non molto accurata. Su alcune cose le cose vanno molto bene, su altre non si riesce a capire. Chiarissimo, siano i criteri attraverso i quali, per così dire, la competenza degli amministratori, che sono bravi, lei dice, a presiedere alle garanzie fondamentali di tutela della qualità, del non decadimento e del filtro antipartigianeria, però quando si va nel merito delle materie ci vorrebbe più rigore scientifico, o quantomeno non è dichiarato il criterio di intervento, non è troppo chiaro. Sentiamo ancora un'ultima telefonata, Emanuele da Roma, che invece che esperienza ha? Buongiorno Giannino, la ringrazio di avermi fatto intervenire. Io intanto credo di aver anche capito chi è Mario, perché ci siamo forse incontrati su Wikipedia. L'esperienza mia è molto simile a quella di Mario, cioè una persona che interviene, io sono intervenuto con nome e cognome, che interviene su Wikipedia da professionista cercando comunque di rapportarsi con una comunità di dilettanti. Nel suo caso lei è un professionista in che ambito? Nell'ambito storico, sono un giornalista che lavora per una rivista di storia. E invece ho trovato che di fronte, quando si tenta di dare una veste oggettiva a una voce che invece si vorrebbe indirizzata tendenziosamente, a quel punto si viene attaccati, accerchiati e eliminati, nel caso mio eliminati. Ma il suo giudizio è che esistono, per chi è competente in alcune materie, dei criteri, qui stiamo parlando di materie umanistiche eccetera eccetera, esistono dei criteri di orientamento delle voci rispetto ai quali il suo tentativo era quello di scriverle da un altro punto di vista, per cui lei ha visto anche un criterio non dichiarato ma molto forte nella resistenza che le è stata opposta? Assolutamente sì, anche perché Wikipedia ha alcuni pilastri, che sono il principale dei quali è il secondo, e impone il punto di vista neutrale, che dice che tutte i punti di vista vanno riferiti chiaramente nell'ordine della loro importanza relativa all'interno della società. Esempio tipico: la Terra piatta, sulla voce geologica sul pianeta Terra, viene nominata di striscio. In altri ambiti, specialmente in ambito storico, dove esistono più teorie, pensiamo per esempio al Novecento, dove esistono la scuola De Feliciana, per esempio la scuola di Tranfaglia, come no, argomenti, come no, dovrebbero essere entrambe le scuole esposte con il peso che meritano, invece per esempio la scuola De Feliciana, almeno nel caso mio, è stata in molti casi attaccata, messa sotto. E qui Emanuele ci consente di arrivare a uno dei punti sui quali si fonda poi l'inevitabile, sempre aperto, giudizio e pregiudizio, e cioè sul fatto che laddove diciamo le materie non siano ispirate al rigore della scienza fisica, inevitabilmente dietro vi sia un non dichiarato criterio orientativo. Qual è il criterio orientativo? In questo caso qual è? Quella della maggioranza di adesione degli accademici italiani, che inevitabilmente fanno apparire, ed è stata così nella storia, in minoranza la teoria e l'interpretazione De Feliciana del fascismo come del Novecento e delle diverse correnti politiche. È ovvio che non dovrebbe essere, è ovvio, almeno anche per me è ovvio che non dovrebbe essere questo il criterio, però è inevitabile che un criterio vada adottato o vada nella pluralità dei criteri. Comunque se ne persegua uno nel dibattito delle scienze umane. La stessa cosa vale per tutto ciò che afferisce alla psicanalisi, alla psicologia, per molti versi alla teoria economica. Quindi questi sono i punti su cui è aperto il contratto. Sentiamo Frida Broschi che ci risponde al volo su questa batteria di osservazioni che a caso dai nostri microfoni sono venute. Allora, rispondo vagamente nell'ordine. Al primo signore che è intervenuto rispondo che il limite che lui riscontra in Wikipedia è tutto sommato quello che potrebbe riscontrare in qualsiasi enciclopedia a carattere generale. Non deve essere una fonte di approfondimento, ma deve essere il punto dove partire per andare a ricercare più nel dettaglio una materia. Al professore universitario per la parte storica che si chiedeva se gli amministratori hanno una formazione culturale sufficiente, la risposta è probabilmente no, ma non fa neanche parte del loro ruolo. Quello che si richiede è una voce di Wikipedia e un contributo su Wikipedia e che sia per certi versi autoesplicativo, per cui di solito le discussioni su una voce vanno avanti, lasciatemi passare il termine, a colpi di fonti. Per cui sono le fonti che spiegano perché c'è quella parte raccontata su Wikipedia. Un amministratore difficilmente entra nel merito se è presentata una fonte. Poi possiamo discutere della validità delle fonti, certo, questo indubbiamente. E invece al giornalista, l'ultimo che è intervenuto, vorrei ricordare che tra i tanti pilastri di Wikipedia c'è anche quello che Wikipedia non ha regole fisse, nel senso che le regole ce le costruiamo strada facendo, discutendone con tutta la comunità e cercando di ottenere un consenso. Non avendo una redazione non riusciamo ad avere e non vogliamo neanche avere un taglio editoriale ben definito, ma cerchiamo di averne uno il più ampio possibile e di limarlo all'occasione. A questo punto abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e poi chiedo due riflessioni di fondo finale, una a Luca De Biase e l'altra a Carlo Formenti. Al primo chiedere se ha visto evolversi nel tempo come si sono evoluti i filtri per impedire che gruppi orientati possano utilizzare internet in maniera non dichiarata ma con un fine esplicito per orientare, oggi stiamo parlando delle voci Wikipedia, ma per orientare interpretazioni, eventi in tempo reale, oramai possono avvenire eventi politici su scala nazionale, locale, internazionale, globale, attraverso la capacità di focalizzare la pressione sulla rete per orientare eventi asimmetrici. E in questo la domanda che farò a Luca è: siamo abbastanza in grado dal punto di vista dell'informazione, quindi di una cultura democratica fatta da modesti operatori dei computer, o la capacità tanto di creare quanto di evitare questo utilizzo della rete sta ancora più potentemente concentrata nelle mani di qualche cosa che ci sfugge ed è molto molto lontano dal mito della trasparenza e della democrazia della rete? E questa è la domanda che farò a Luca, così ci pensa qualche secondo. E invece al professor Formenti poi alla fine una domanda di fondo: ma quanto questi segni sui nostri computer cambiano anche le nostre teste, la nostra idea stessa di cultura, e quanto ci problematizza umanizzano rispetto a tutto ciò che abbiamo visto, ci arricchiscono invece. Ora, dopo le due risposte, ma intanto adesso l'informazione sulla circolazione stradale. Allora Luca, secondo te siamo abbastanza attrezzati per impedire la trasparenza, l'adesione, insomma, che tutto ciò che è bello della rete non si possa concentrare nelle mani di potenze oscure che sono l'esatto opposto, la faccia, il lato oscuro della forza, per così dire? Io credo che la principale difesa sia quella che stai facendo tu e del tipo di quello che stiamo facendo qui, cioè si tratta di parlarne e di avere consapevolezza della ricchezza di questa opportunità che ci viene. È chiaro che la storia è una continua conflitto tra l'idea che si possa avere una cultura neutrale e l'idea di usare la cultura per fini estremi o di potere. Ti faccio solo notare che c'è un'altra forza che è molto più avanti in questa direzione. Clay Shirky fa un calcolo, dice che per costruire Wikipedia sono state necessarie 100 milioni di ore di lavoro. Gli americani vedono nel corso di un anno 2.000 miliardi di ore di televisione. In un weekend vedono 100 milioni di ore di pubblicità. È chiaro che la televisione è molto più avanti nel poter influire. Vediamo che il punto di vista neutrale o tra virgolette neutrale di CNN è stato scalzato dal punto di vista radicale di Fox in America e che il confronto tra radicalismi e neutralismi è in atto ovunque. La rete offre la possibilità a chi vuole odiare, vuole creare delle condizioni di conflitto, vuole proporre dei punti di vista estremi, grandi opportunità, ma è chiaro che offre altrettanto grandi opportunità a chi vuole costruire un punto di vista comune nel quale lavorare culturalmente insieme. Ecco, io talvolta mi interrogo perché io penso davvero che nell'informazione noi siamo stati un po' renitenti. Non sto parlando di Luca De Biasi e quelli che lavorano con lui a Nova sul Sole 24 Ore, non sto parlando di coloro che nei diversi organi di informazione animano iniziative. Io considero, devo ammettere, e non perché sia sospettabile, non sono un interno al gruppo, secondo me Nova del Sole 24 Ore è da anni il leader di chi vuole guardare con attenzione e problematicamente dal punto di vista dei giornalisti, non dal punto di vista solo dell'informazione pubblicitaria delle aziende, a cosa avviene nel mondo delle nuove tecnologie, al dibattito culturale. Ma mi chiedo però, anche se noi non abbiamo come giornalisti in realtà nei grandi gruppi editoriali opposto una resistenza culturale che derivava proprio dall'incomprensione di che cosa fosse, per nostra formazione, per la formazione della maggioranza di noi, ecco, non voglio dire, non voglio accomunare tutti, che cosa fossero questi strumenti, che cosa, come dovesse cambiare il nostro lavoro, come dovessimo renderci porosi a questo fenomeno di omeostasi. Dovevamo capire che cambiava il nostro lavoro, l'ABC di come si fa, i nostri tempi di lavoro invece che difendere il contratto e così via. Perdonatemi questa tiritera, perché è facile da una parte che io vi dica, essendo un economista minoritario nel nostro paese, essendo un offertista monetarista, che se vado a vedere l'addizione, le voci inglese sulla materia e quelle italiane, ci trovo una discrasia e ci trovo quindi il fatto che i guardiani anche lì sono in grado di fare un filtro. Se vado a vedere come vengono trattati i libertari, i libertarian nelle voci dell'enciclopedia in inglese, siccome i libertarian sono una componente fondamentale del dibattito politico americano, sono trattati in un certo modo. La stessa tradizione nelle voci in italiano è trattata malissimo, perché qua vengono considerati dei pericolosi fomentatori di odio sociale. Ecco, il compito di chi fa informazione di fronte a queste trasformazioni strepitose che la tecnologia digitale ci ha dato, cambia, perché noi dovremmo essere gli attori, secondo me, del riequilibrio tra i diversi fattori che inevitabilmente si esercitano nei diversi contesti linguistici, di organizzazione dell'economia, delle imprese, eccetera. Secondo me noi come giornalisti, è un'autocritica che faccio, per questo io dico sempre, quelli come Luca De Biasi dovrebbero essere messi in testa all'organizzazione dei gruppi editoriali. Il più di noi giornalisti hanno la testa all'indietro, non si rendono conto che noi dobbiamo riequilibrare vasi ancora non abbastanza comunicanti quando si è in un contesto come quello italiano. E per questo la mia domanda finale poi al professor Formenti è questo: come non ci rendiamo conto in realtà di come influisce lo strumento, il mezzo attraverso cui va tutto questo in tempo reale, ma come ci cambia dal linguaggio e la testa senza che noi ce ne rendiamo conto, professor Formenti? Beh, il come richiederebbe una risposta molto complessa, diciamo in una battuta, perché poi mi interesserebbe anche dire alcune cose su quanto abbiamo certamente visto in precedenza, che resta valido, tra l'altro se ne sta parlando molto in questo momento perché è il centenario della nascita, quello che ci ha insegnato McLuhan da questo punto di vista. Cioè, noi siamo costantemente oggetto di trasformazioni antropologiche da parte del medium che conta in quanto ambiente, che determina il nostro modo di agire, pensare, ragionare, reagire, interagire con il mondo, e siamo determinati in modo inconsapevole per definizione da questi ambienti, cioè ci cambiano letteralmente la testa. E questo avviene con differenziali di velocità sempre più alti, cioè la stampa ci ha messo secoli per cambiare la testa della gente, la televisione, la radio ci hanno messo molto meno, internet ci ha messo un battito di ciglia in tempi storici, noi abbiamo subito delle trasformazioni radicalissime in tempi impressionanti, non solo da parte di internet ma anche da parte dei media digitali in generale, pensiamo a chi di noi oggi sarebbe in grado di vivere senza un cellulare, cosa che non conoscevamo per chi, ahimè, è un po' vecchietto come me fino a qualche decennio fa. Quindi questa è una battuta rapidissima. Per quanto riguarda i discorsi precedenti, che mi sono sembrati molto interessanti, soprattutto gli interventi telefonici che sono arrivati, io direi che quando lei parlava di lato oscuro, ahimè, io credo che il lato oscuro per certi versi abbia già vinto. Cioè, nel senso che proprio un altro differenziale di velocità che ci mette in difficoltà è la rapidità con cui i poteri forti, in particolare l'economia, reagisce alle opportunità aperte da questo nuovo canale, che è molto superiore alla rapidità con cui reagiamo noi poveretti che cerchiamo di trarne tutta una serie di vantaggi per utenti, consumatori, cittadini. E professor Formenti, si lasci dire che se lei dice certo c'è l'alto scuro della forza e la grande organizzazione dei poteri economici, io devo dire che ce n'è anche uno che riguarda la politica, perché se io penso a ciò che so delle migliaia e migliaia, decine di migliaia di ottimi tecnici della rete e hackers messi a rete appunto negli anni con strepitose risorse dal governo della Repubblica Popolare Cinese, mi chiedo quanto il lato oscuro della forza non ci sia chiaro e sia potentemente in grado di orientare quello che abbiamo visto. Non ho voluto toccare WikiLeaks apposta perché non c'entra niente con l'enciclopedia in rete di cui abbiamo oggi celebrato il decennale, ma intanto sono gli interrogativi del nostro tempo. Avete visto come attraverso la rete e attraverso una selezione fatta da chi? Fatta come? Data a chi di WikiLeaks si possa cambiare l'ABC, la grammatica, la sintassi, l'interpretazione della politica diplomatica mondiale? Vi pare poco? È un altro lato oscuro della forza. Viva la rete, però anche la rete ha bisogno di anticorpi e della nostra testa, tanto ai tempi dell'enciclopedia scritta come quella in rete, l'unico anticorpo a saperla alimentare con equilibrio e senza faziosità. Un buon inizio di settimana, senza politica e senza le cose che leggerete sui giornali, fin troppo attentamente. A domani, Linea Giornale Radio. Mm-hmm.